Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, benvenuti a Magazine 24, appuntamento ogni sabato e ogni domenica con le segnalazioni dai periodici italiani e stranieri, periodici un po' di tutti i tipi, quindi dai settimanali per arrivare fino ai mensili e addirittura anche a qualche uscita speciale d'estate in edicola. Si possono trovare anche proposte inusuali o con qualche sorpresa. Innanzitutto voglio cominciare con qualcosa di leggero e beneaugurante. Sfogliando Focus del mese di agosto, anche se in agosto non ci siamo ancora, ci siamo quasi ma non ancora, dicevo, sfogliando Focus ho trovato degli esperimenti da spiaggia. Allora, poiché mi pare che il periodo sia propizio per molti di noi per recarsi finalmente verso le spiagge, allora ve ne voglio segnalare un paio che ci hanno incuriosito, hanno incuriosito Anita Panizza e me. Uno è il fatto che se volete mantenere fresco che le bibite in una bacinella con del ghiaccio, vi conviene aggiungervi del sale. Il sale infatti modifica, diciamo, i tempi di raffreddamento e di riscaldamento dell'acqua e quindi anche del ghiaccio, e in questo modo, insomma, si ottiene più rapidamente l'effetto rinfrescante desiderato. L'esperimento poi viene descritto puntualmente nelle pagine di Focus, si spiega la spiegazione tecnica, io prima ne ho abborracciato una un pochino grossolana. La questione tecnica è la seguente: ovviamente la bacinella di ghiaccio e sale raffredderà prima la bottiglia, e questo si può anche verificare con dei termometri. Questo perché? Perché il sale agevola la fusione del ghiaccio. L'acqua salata solidifica a una temperatura inferiore agli 0 gradi, è per questo che d'inverno si sparge il sale sulle strade, infatti. Questo processo assorbe calore dall'ambiente circostante, quindi per creare il ghiaccio, anche partendo da acqua a 0 gradi, bisogna prelevare dall'acqua una quantità relativamente elevata di calore. Questa energia termica negativa, immagazzinata nel ghiaccio, viene rilasciata con la fusione e può essere sfruttata, in questo caso, per sottrarre rapidamente calore alla bottiglia. Cioè, insomma, per raffreddare rapidamente qualche bottiglia che avete messo in una bacinella col ghiaccio, se ci aggiungete del sale, fate prima. Questo spiega uno dei 7 esperimenti da spiaggia di Focus. E poi qualcosa per cui vi rimando, se volete, non solo a Focus in edicola, ma anche a un apposito sito: l'aereo di carta perfetto. Molti di noi hanno giocato, me compreso, con gli aeroplanini di carta in altri anni. Ecco, c'è un po' di delusione nel vedere l'immagine. Vi posso anticipare che l'aereo di carta perfetto non ha nulla di quegli abbellimenti come alettoni, code e pieghe varie che molti di noi facevano sugli aeroplanini, appunto, che si facevano a scuola. In realtà l'aereo di carta perfetto è proprio un foglio A4 piegato secondo poche linee e lasciato abbastanza pulito, insomma, senza grandi fronzoli. Però, se volete, o prendete Focus oppure andate su questo sito, si chiama www.10, scritto a numero 10, paper airplanes, quindi aeroplanini di carta.com, perché dovete sapere, e lo spiega appunto Focus, che l'aereo di carta perfetto in realtà è un oggetto serissimo di studi da parte di studenti e ingegneri un po' di tutti i tempi. Quindi questo modello che viene proposto da Focus è il record, che è quello che ha battuto il record del mondo per tempo di volo. E quindi se volete un aereo di carta che stia in aria il più a lungo possibile, dovete rifarvi a queste istruzioni. Con un salto dal nulla di tecnologico come l'aeroplanino di carta, andiamo a qualcosa invece di molto tecnologico e sempre però in tema un po' di tempo libero. È in edicola Applicando, è una rivista dedicata soprattutto al mondo Mac, al mondo Apple, e vi segnalo che Francesco Pignatelli ha fatto una raccolta di applicazioni che si possono mettere nell'iPad, questa tavoletta appunto che si sta diffondendo molto rapidamente non solo solo in Italia ma in tutto il mondo, applicazioni per il tempo libero. Ad esempio, hanno pensato bene di dare un'applicazione che faciliti la scrittura. Chi ha l'iPad sa che la tastiera che compare nello schermo è incompleta, alcuni caratteri non sono immediatamente disponibili, bisogna spostarsi da una schermata a un'altra. Ecco, hanno inventato un'applicazione che completa la tastiera e consente di scrivere meglio. C'è anche un'applicazione che facilita chi vuole prendere appunti a mano, in qualche modo, cioè scrivendo sulla tavoletta. E poi c'è un'applicazione dedicata proprio alle fotografie, si chiama Insta Gallery e si rifà a un social network che è molto popolare tra chi si occupa di foto e di immagini, Instagram. Infatti, spiega Pignatelli, su Applicando è il social network più popolare del momento, anche perché appunto è pensato per un utilizzo direttamente dagli iPhone, e quindi si possono fare le fotografie e poi utilizzare questo Instagram un po' come se fosse un social network, cioè per mostrare, per mettere in rete, condividere queste immagini. L'app che viene segnalata qui serve appunto a facilitare tutti questi meccanismi di caricamento delle fotografie e poi inserimento nei social network. Se volete scambiarvi le foto delle vacanze, questo potrebbe anche comportare l'abolizione delle serate per la visione delle diapositive che usavano in altri tempi molto meno tecnologici dei nostri. Tempi meno tecnologici come ad esempio gli anni 60, perché vi voglio parlare di una cosa un po' particolare. In edicola trovate da qualche giorno un numero speciale di Epoca. Epoca esce oramai per lo più con numeri speciali o numeri tematici, raccogliendo appunto materiali della lunga storia di questa rivista. Il numero che propongono da qualche giorno in edicola è un numero dedicato agli anni 60, e qui c'è appunto il legame dei tempi meno tecnologici. Questo numero ha una serie di articoli appunto che ricordano cose successe negli anni 60, che sono stati anni effettivamente di grandi cambiamenti e in cui sono accadute parecchie cose che ancora oggi si fanno sentire e pesano sulla nostra vita quotidiana. Ad esempio, partiamo da una cosa molto minima, se volete una sorta di storia minima. Nel 1964, per la prima volta, è arrivata in Italia, è stata commercializzata in Italia la bambola Barbie. La bambola Barbie, che quindi si avvia adesso quasi ai 50 anni, con tutto il rispetto dovuto naturalmente a una signora, anzi a una signorina. Bene, questa bambola fu lanciata con qualche perplessità, appunto, perché si riteneva che non avesse degli atteggiamenti, non avesse delle fattezze adeguate. E Epoca, nel suo numero speciale, lo ricorda. Così scrivevano appunto per segnalare lo sbarco della Barbie in Italia. Barbie era stata lanciata in America 5 anni prima, cioè nel 59, quasi nel 1960. Dopo aver conquistato mezzo mondo, Barbie, la bambola indossatrice firmata Mattel, lanciata in America nel 59, arriva in Italia. Barbie ha forme perfette e provocanti da adulta, e qualcuno, così scriveva Epoca, teme che possa produrre effetti nocivi sulle bambine tra gli 8 e i 14 anni alle quali è indirizzata. A pochi giorni dal lancio italiano, Epoca si chiede: turberà la bambola Barbie la pace delle famiglie italiane? Ma la domanda in realtà è retorica, precisano poi sempre su questo numero speciale. Il tifo per il nuovo giocattolo è poi totale. Non a caso, è ancora una citazione dal numero del 1964, si è dotata la bambola di un così perfetto e vasto guardaroba. Lo si è fatto col preciso scopo pedagogico di stimolare la fantasia delle piccole proprietarie di Barbie. La bambola diverte chi la possiede, così spiegava Epoca, ripeto, nel 1964, ma ha anche una funzione più importante, cioè quella di essere uno specchio per le giovanissime. In Barbie la bambina vede se stessa quando sarà adulta, la veste con gli abiti che lei stessa vorrebbe un giorno indossare. E per creare il suo guardaroba si fece ricorso a un'autentica artista, Charlotte Johnson, che per 20 anni è stata una delle più brillanti disegnatrici di moda a New York. E quindi si passava alla descrizione delle toilette da sera di Barbie, delle pellicce, dei costumi, e via via poi di tutte le cose che sono arrivate nei decenni a corredare appunto lo straordinario successo di questa bambola. Mauro De Angeli questa mattina in regia mi fa accenno che abbiamo circa mezzo minuto prima di dover lasciare la linea alle informazioni sul traffico. Oggi è una giornata molto importante per il traffico, quindi anche queste informazioni lo saranno. Io vorrei stare sempre su un tema degli anni 60, perché sapete che stiamo proponendo con il Sole 24 Ore in edicola dei libretti con dei test di cultura generale, di logica, di storia, di cinema e quant'altro. Allora, una delle domande che trovate nel libretto in edicola oggi con il Sole 24 Ore chiede proprio: che novità tecnologica presentò Philips nel 1963? Quindi restiamo in tema di anni 60. Vi do tre possibilità, la risposta naturalmente arriverà dopo le informazioni sul traffico. Le tre possibilità sono il rasoio elettrico, il Walkman o la musica a setta. Sono le tre opzioni, novità tecnologica presentata da Philips nel 1963. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. Prima della interruzione per ascoltare le informazioni sul traffico vi avevo posto una domanda tratta dalle molte domande che trovate sui nostri libretti Misura il tuo sapere. Sono dei libretti che offriamo, che presentiamo con il Sole 24 Ore in edicola e che appunto contengono una serie di quiz adatti un po' anche al periodo estivo. Siccome stavamo parlando di anni 60, la domanda riguarda gli anni 60: che novità tecnologica presentò Philips nel 1963, tre possibilità: il rasoio elettrico, il Walkman, la musica a setta. E qui abbiamo fatto anche delle, come dire, degli esperimenti in studio, qualcuno ci ha preso e qualcuno no. La risposta esatta è la musica a setta. La vera novità tecnologica del 63 fu la musica a setta, il Walkman arrivò molto dopo e il rasoio elettrico effettivamente non saprei dirvi quando sia arrivato. Trovate molte di queste domande, appunto 200 e passa domande, nel nostro volume che è in vendita in questi giorni, proprio da oggi con il Sole 24 Ore. Noi restiamo però negli anni 60, ci restiamo perché mi fa piacere davvero rileggere qualche cosa su questo numero speciale di epoca di cui vi parlavo, dedicato tutto agli anni 60. Negli anni 60 sono successe molte cose, tra l'altro l'uomo è riuscito ad andare sulla Luna, c'è stato il 1968, è stato costruito il muro di Berlino all'inizio degli anni 60, insomma eventi di notevole rilevanza storica. C'è un piccolo evento sportivo che per noi però fu un grande evento sportivo, ahimè infausto, ed è la sconfitta con la Corea del Nord ad opera appunto del dentista Park Do-hik, e questa fu una sconfitta terribile, avvenne nel 1966 e Gianni Brera la commentò con, appunto per epoca. Questo breve articolo di Brera viene riproposto, è assolutamente un piacere. Io vi segnalo solo che nell'inizio dell'articolo Brera concentra le sue critiche sulla rivoluzione difensiva che Fabbri, il commissario tecnico di quell'Italia, appunto aveva portato, criticando le scelte che aveva adottato. E scrive a un certo punto: dunque Fabbri incomincia con il piede sbagliato, mettendo fuori Picchi, faccio una parentesi, giocava allora come difensore nell'Inter, mettendo fuori Picchi scombicchera l'intera difesa. Né i centrocampisti ricevono aiuto, né con loro le punte. Un diversivo molto grottesco è stato tentato con la ricorrente accusa al difensivismo. Il campionato li vizia, ha accennato Fabbri con voce lagnosa, e qualche becero della critica il catenaccio li rallenta, come se, rarefacendo la difesa, i cacaminuzzoli dell'attacco diventassero d'acchito folgori di guerra. Ma che? Restano flebili abatini, tanto smargiassi quando i bulloni avversari non sono a tiro, tanto vezzosi e tuttavia maramaldi. Questo Gianni Brera nel criticare la pessima, ohimè, prestazione dell'Italia contro la Corea nel 1966, sconfitti appunto da un gol di un dentista, cioè un signore che di mestiere per vivere faceva il dentista, ma che riuscì appunto a battere con un suo gol la nazionale italiana. Torniamo ai giorni nostri, perché c'è una vicenda che è segnalata sul venerdì che ieri è stato diffuso con Repubblica, il campione battuto dalla burocrazia. La vicenda è esemplare, riguarda appunto coloro che sono nati in Italia ma da genitori non italiani e sono soggetti a questa regola, al compimento di 18 anni della maggiore età possono richiedere la cittadinanza italiana ma non dispongono della cittadinanza italiana in modo automatico. Ecco, questa regola di cui la politica ha provato a occuparsi diverse volte ma senza mai poi arrivare a una revisione ha colpito duramente una giovane atleta italiano che si chiama Hassane Fofana, è nato da genitori ivoriani ma è nato in provincia di Brescia, a pochi chilometri dal lago di Garda. Spiega Riccardo Bianchi sul venerdì che a giugno Fofana ha dimostrato di essere il più veloce atleta italiano nella categoria juniores per 110 a ostacoli e che quindi la federazione volentieri l'avrebbe portato alle manifestazioni internazionali. Però, secondo la federazione internazionale, questo atleta risulta ancora di cittadinanza ivoriana perché la nazionale della Costa d'Avorio si è dimenticata di inviare dei documenti che invece attestano la sua cittadinanza italiana. Quindi, scrive Bianchi, uno degli atleti più promettenti a livello continentale non ha potuto essere schierato nelle file degli azzurri, ha dovuto guardare le gare in televisione. La vicenda è paradossale perché Hassane non ha mai visto la Costa d'Avorio, non ha nemmeno un passaporto ivoriano, sulla sua carta d'identità alla voce città di nascita c'è scritto Gavardo, un piccolo comune bresciano a pochi chilometri dal lago di Garda. Ma come tutti i figli di stranieri nati in Italia, Fofana ha dovuto aspettare i 18 anni per poter chiedere la cittadinanza italiana. Non appena è diventato maggiorenne, cioè nell'aprile dell'anno scorso, la società sportiva per la quale corre ha fatto tutte le pratiche richieste, a dicembre ha consegnato le carte in federazione. Ma poche settimane fa la sorpresa, da Roma chiedevano un certificato dalla Costa d'Avorio, il certificato non è stato spedito in tempo e così per un cavillo burocratico e però anche in realtà per una regola abbastanza discutibile come quella appunto di non considerare italiani coloro che sono nati in Italia da cittadini stranieri, una regola di cui ripeto la politica ha provato a occuparsi diverse volte ma senza grandi risultati, questo giovane atleta è rimasto escluso dalla possibilità di partecipare alle gare. Questa di cui abbiamo ascoltato un piccolo brano è Eclipse, una composizione di Charlie Mingus. Ve la propongo perché Charlie Mingus è il mito del jazz a cui abbiamo dedicato l'uscita in questa settimana. Sapete che appunto con il Sole 24 Ore stiamo proponendo una collana dedicata proprio ai miti del jazz. Mingus, se volete, rispetto alla storia che raccontavamo prima, ha più di un legame perché lui disse più di una volta, e lo riporta anche il libretto che trovate con questo CD, se fossi stato bianco probabilmente sarei riuscito a proporre le mie idee molto tempo fa, forse non sarebbero state altrettanto buone, così diceva Mingus, perché quando si nasce liberi ma non riesco a immaginarmelo, gli sforzi e l'intraprendenza magari non sono forti come lo sono per chi deve darsi da fare e quindi ha più da dire. Queste erano le parole di Charlie Mingus e questa invece era la sua musica. Allora Ancora dal basso di Charlie Mingus, che giustamente si lamentava anche delle difficoltà, perché per chi nasce diverso, ha un problema, a un evento che ci ha fatto molto riflettere su questi fenomeni xenofobi. Mi riferisco naturalmente agli eventi norvegesi, l'attentato a Oslo, la strage sull'isola di Utøya. Tutti i settimanali che trovate in edicola si occupano praticamente di questo caso. Io ho scelto la rassegna che viene presentata su Famiglia Cristiana, in cui, oltre a ritornare sulla vicenda di Breivik, di questo signore che ha fatto una strage appunto di giovani a Utøya, e sull'attentato a Oslo, ecco, Famiglia Cristiana però fa anche una digressione spiegando come nel nord d'Europa stiano aumentando i movimenti xenofobi. Ci sono i veri finlandesi in Finlandia, ci sono gli xenofobi di estrema destra in Svezia, ci sono delle tensioni xenofobe in Danimarca, che infatti, come segnala proprio Famiglia Cristiana in queste due pagine da cui sto prelevando queste informazioni, sono informazioni raccolte da Giulia Cerqueti. Bene, in Danimarca hanno pensato di chiudere di nuovo le frontiere, quindi con un passo indietro rispetto al trattato di Schengen, e questo, oltre naturalmente al dolore e allo sgomento per le vicende norvegesi, questo mi pare un passo di riflessione che sia necessario fare. Con questa indicazione abbiamo pressoché concluso il tempo a nostra disposizione. Vi ricordo che con il Sole 24 Ore trovate anche il libro di Margaret Mazzantini, da ieri, Non ti muovere, è in edicola per la collana dei capolavori del Premio Strega, in edicola da ieri. Mauro De Angeli mi fa cenno che il nostro tempo è praticamente concluso. Allora, io ringrazio lui, ringrazio Anita Panizza che mi ha aiutato a preparare questo programma. Se volete scriverci, magazine24@radio24.it. Se volete informazioni sui nostri programmi, il sito è www.radio24.it. Grazie e buona giornata a tutti.